Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Quanto conta l'etichetta? Quanto ci facciamo caso? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. La domanda non si riferisce a questioni di galateo e di forma, ha a che fare invece con le informazioni contenute sui capi di abbigliamento che indossiamo. Sappiamo davvero leggerle? Ne parliamo nel primo dei nostri approfondimenti. A proposito di etichette e trasparenza, parliamo poi di una vera e propria rivoluzione nel mondo della grande distribuzione. Al supermercato arriva l'etichetta dell'acqua pubblica. Focus sui trend dedicato infine ai consumi domestici, quando la casa fa tendenza. Prima però ci sono come sempre le notizie e curiosità di questa settimana. È New York, la città ideale dello shopping. Secondo il sondaggio condotto da TripAdvisor, sito internazionale di recensioni di viaggi, dopo la metropoli americana si collocano Londra e Parigi, seguite da Milano e Barcellona. Le associazioni dei consumatori plaudono all'annunciata liberalizzazione dei saldi. Finalmente si dà diritto ai commercianti di praticare sconti e promozioni durante tutto l'arco dell'anno, dicono, con benefici economici per le famiglie e per l'intera economia del paese. Da 6 mesi a 6 giorni di lavoro. Quello che serviva per l'acquisto di un frigorifero nel 1954 e quanto serve oggi. Il dato è frutto delle ricerche effettuate da Whirlpool per allestire la mostra del centenario. Risultati da record storico per Rolls-Royce nel 2011. Nonostante la crisi, la casa automobilistica extralusso ha registrato i migliori risultati dei suoi oltre 100 anni di storia, con 3.538 vetture vendute, più 30% rispetto all'anno precedente. Considerata la più grande artista giapponese vivente, Yayoi Kusama realizza opere a Pua. Il suo stile ossessivo e colorato ha da sempre attratto i creativi della moda e dello spettacolo. Ora, Louis Vuitton l'ha chiamata per realizzare una linea di borse, scarpe, orologi e gioielleria che sarà presentata a luglio in concomitanza con l'inaugurazione della mostra a lei dedicata presso il Whitney Museum di New York. L'iPhone mania che imperversa in Cina è esplosa venerdì scorso in un vero e proprio assalto al nuovo Apple Store di San Litun, il quartiere alla moda nel centro di Pechino, sfociato in violenze, in un massiccio intervento della polizia e nella sospensione delle vendite dell'iPhone 4S in tutto il paese. La borsa della spesa. E così l'imperatore aprì il corteo sotto il sontuoso baldacchino e la gente per le strade alle finestre diceva: come sono belli i vestiti nuovi dell'imperatore, ma come gli stanno bene! Nessuno voleva mostrare che non vedeva niente per non passare per stupido o per indegno della propria carica. Ma se non ha niente addosso, disse un bambino. Prendiamo spunto dalla fiaba di Andersen raccontata da Vittorio De Sica in questa clip d'autore per parlare di un'iniziativa che ha a che fare proprio con un modo di vestire consapevole. È il progetto Vestiti Trasparente, realizzato da un gruppo di associazioni dei consumatori, Adiconsum, Assutenti, Confconsumatori e Movimento Difesa del Cittadino, insieme alla Camera di Commercio di Milano, per orientare i cittadini verso acquisti consapevoli dei prodotti tessili. Sono ancora pochi i consumatori che al momento dell'acquisto di un capo consultano l'etichetta o ricercano un marchio di qualità, ci dice Lucia Moreschi del Movimento Difesa del Cittadino. Abbiamo deciso proprio di occuparci di questa tematica perché ci siamo accorti che i cittadini sono mediamente poco informati rispetto al settore tessile, per cui abbiamo pensato di offrire a loro degli strumenti per capirne di più. Abbiamo realizzato un vademecum per i cittadini, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, in modo tale che, toccando un po' le tematiche più importanti, come appunto che cosa deve riportare l'etichetta, come deve essere realizzata, l'etichetta di manutenzione, piuttosto che i marchi di qualità del tessile, abbiamo voluto proprio fornire questi strumenti perché i cittadini potessero orientarsi meglio e con più consapevolezza nei loro acquisti di prodotti tessili. Forse non tutti i consumatori sanno, si rendono conto del fatto che soprattutto per quanto riguarda i prodotti tessili low cost, i luoghi di produzione sono extra Unione Europea, luoghi cioè in cui esistono normative diverse. Purtroppo le normative extra UE, diciamo, sono meno stringenti rispetto all'utilizzo di sostanze chimiche. Sicuramente il settore tessile è un settore che utilizza buone quantità, diciamo, di sostanze chimiche. È evidente che un prodotto di qualità alla fine del ciclo produttivo non deve rilasciare queste sostanze, possono anche creare problemi di salute, tant'è che proprio i dermatologi denunciano che almeno il 4% della popolazione italiana soffre proprio di dermatiti allergiche da contatto, probabilmente imputabili proprio al rilascio di sostanze chimiche comunque nocive nel contatto con la pelle. Quali sono quindi le attenzioni che devono usare i consumatori? Innanzitutto è buona norma sempre lavare un capo nuovo prima del suo utilizzo. E naturalmente l'attenzione deve essere ancora maggiore se i capi sono destinati all'infanzia, quindi devono essere capi di tessuti traspiranti, evitare magari proprio per i bambini i colori più scuri, che sono quelli che rilasciano generalmente sostanze chimiche che possono essere irritative, e anche per quanto riguarda i capi che portiamo in tintoria, ecco, visto che comunque anche lì si prevede l'utilizzo di sostanze chimiche, comunque esporli all'aria prima di indossarli, questo in generale. Poi è chiaro che una maggiore attenzione al momento dell'acquisto, come quello di leggere l'etichetta di manutenzione, piuttosto che cercare un marchio di qualità che mi così garantisca la presenza di determinate caratteristiche nel prodotto, è anche meglio. Al supermercato, intanto, a proposito di trasparenza e consumo consapevole, arriva l'etichetta dell'acqua pubblica. Si tratta di un'iniziativa di Coop che nei supermercati di Modena e Ferrara espone per la prima volta sugli scaffali delle acque minerali schede dettagliate sulle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua di rubinetto di quella zona. È la fase 2 della campagna consumerista Acqua di casa mia, campagna lanciata dal colosso della grande distribuzione alla fine del 2010 con lo scopo di sensibilizzare i consumatori su un consumo dell'acqua più consapevole. L'obiettivo è dare ai consumatori le informazioni per poter scegliere, ci dice Isa Sala, che è direttore soci e consumatori di Coop Estense. Riteniamo importante che i cittadini conoscano le caratteristiche della loro acqua. L'acqua del rubinetto è uno dei pochi prodotti che non ha un'etichetta, no? I dati delle schede sull'acqua di rubinetto da chi vengono forniti? Dai gestori presenti nei diversi territori coi quali abbiamo, diciamo, concordato le modalità, la periodicità, le caratteristiche, anche per poter rendere di facile comprensione questi parametri. Noi abbiamo scelto, sulla base di un'indagine che abbiamo effettuato in collaborazione con Cittalia, il centro studi dell'ANCI, perché questa attività sarà presto replicata da tutte le coop italiane, quindi dovevamo individuare criteri che fossero omogenei in tutto il territorio. A chi si chiede perché un gruppo della grande distribuzione che vende le acque in bottiglia si mette a promuovere quella del rubinetto? Voi che cosa rispondete? Rispondiamo che siamo un gruppo della grande distribuzione e siamo un'associazione di consumatori. Da sempre abbiamo un'attenzione particolare, diciamo, alla salute delle persone e all'ambiente in senso lato. E l'obiettivo, appunto, è quello di dare ai nostri clienti, ai nostri soci, un'informazione che consenta loro di scegliere, no? In questa campagna, che lo abbiamo ricordato, è partita nel 2010, Coop è stata anche criticata da Mineracqua, che è la federazione delle industrie delle acque minerali. Siete pronti in questo caso a nuove critiche? Come risponderete eventualmente? Ma la nostra non è una campagna contro. Io credo che l'acqua del rubinetto e l'acqua minerale possano convivere. Dal nostro punto di vista era importante colmare un gap di informazioni. Essere e avere. Another summer day has come and gone away. In Paris or Rome, but I wanna go home.

che negli ultimi anni dalle campagne sono entrati in città, hanno soppiantato i giardini, hanno invaso balconi e tetti, ora stanno diventando anche domestici, cioè la frutta e la verdura crescono anche in casa. Anche qui i kit dedicati sono molti, sono bellissimi oggetti con un interessante portato simbolico evidentemente. Per esempio su Amazon si poteva acquistare, ma oggi è già esaurito, Allot in a Box, edizioni limitate di semi con variabilità stagionale evidentemente, in una piccola scatola di cartone che contiene anche il calendario con le indicazioni per la semina e la raccolta, le etichette da piantare in corrispondenza delle verdure, il tutto a 13 sterline. E intorno a una casa, una misteriosa villa degli anni 20, ruota la trama di una serie TV di successo in onda anche in Italia su Fox, American Horror Story. Benvenuti. Devo dirvi quello che è successo agli ultimi proprietari. Non mi dirà che sono morti qui dentro. Sì, invece. La prendiamo. Per quanto tempo vuoi punirmi per quello che ho fatto? Non dirò niente. Devi andare via da quella casa. Non dai qui dentro. Che ci fai in casa mia? Di che cosa hai paura? Di tutto. Ben Harmon! Dai, rispondi. Ciao, tesoro. C'è uno psicopatico che urla dicendo che gli devi dei soldi. Forse è uno dei tuoi pazienti. Che faccio? Chiamo la polizia? No, no, basta. Basta che non gli apri. La porta è chiusa? Sì. Noi stiamo tornando a casa. Violet, mi raccomando, tieni la porta chiusa. Patrizia, horror a parte, con il richiamo a questa serie abbiamo voluto in qualche modo spezzare la rievocazione dell'idilio domestico. Anche nel retail la casa diventa sempre di più uno degli ambienti di riferimento, è così? Sì, la domesticità va fuori casa e contamina anche e soprattutto il retail. Dunque questo vissuto intimistico si ibrida con il mondo dei consumi ed è appunto la voglia di casa che il consumatore cerca anche fuori, soprattutto nei luoghi dello shopping. Molti negozi, ristoranti, locali pubblici riproducono quindi fisicamente l'atmosfera calda e la struttura degli interni privati. Gli esempi sono moltissimi, dal ristorante apartment di Atene al flagship store londinese di Paul Smith, Westbourne House. Il negozio casa, arredato proprio come una casa di Bless, accessori, mode e belle arti sia a Parigi che a Berlino, o ancora Antenne di Madrid o Place di Mosca. Riguarda anche gli alberghi questo trend. Un esempio è Michel Berger di Berlino, in una ex fabbrica ristrutturata, la cui entrata, proprio la hall, è un grande salotto dai colori caldissimi con grandi divani pieni di cuscini, tavolini, librerie che sono delle grandi gabbie di metallo ripiene di libri e riviste accatastati alla rinfusa, insomma anche con un po' di disordine da casa, lampadari e luci d'ambiente che ricordano più l'entrata salotto di una casa che una hall di un albergo. Interessanti in questo senso sono i negozi fisici sperimentali, espressione di marchi digitali che trasmigrano dal mondo dell'online al mondo fisico e scelgono il format casa per sbarcare appunto nelle strade. eBay, il colosso delle aste online, nonché centro commerciale online, ha aperto nel dicembre scorso un negozio fisico stile casa a Londra, vicino Oxford Street. È il Temporary eBay Christmas Boutique, con 300 articoli veri, prodotti veri, selezionati tra quelli più venduti online, esposti appunto in spazi allestiti come un vero salotto. L'acquisto naturalmente è da fare con smartphone, via QR code, il codice matrice, e la merce arriva a casa. Non poteva che essere così, in perfetto trend mobile commerce, quindi acquisto da casa a casa. La stessa strategia per PayPal, società di pagamenti online di proprietà di eBay, che si è messa in vetrina a New York, a Tribeca. Esempio forte, simbolico, di conquista degli spazi pubblici da parte sia di oggetti che di codici domestici è Times Square. Dal 2008, temporaneamente d'estate, diventa salotto piazza dei cittadini, lo continua a fare e in modo sempre più distintamente da arredo casa, passando quindi dalle sedie sdraio un po' casuali a un arredo da esterni elegantissimo fatto di divani circolari, delle specie di tazze, guscio, bozzolo, anche leggermente basculanti, che introducono appunto nella vita urbana dei momenti di relax privato. E in ambito marketing non convenzionale citiamo il metrovertising domestico di IKEA a Parigi, una campagna che ha visto alcune stazioni della metropolitana arredate come i salotti IKEA. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Basilea su casa, consumi e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher. Alessia Zampano, ciao Alessia. Buon pomeriggio a tutti. Dunque, il campus della nota fabbrica di arredi Vitra, alle porte della città svizzera, si è arricchito nel 2010 di un nuovo edificio progettato dagli architetti Herzog e De Moron, che ospita la Home Collection, la collezione di mobili per la casa. La Vitra House non è un museo, non è uno showroom, non è un negozio, è tutte queste cose insieme, racchiuse e rappresentate però da un unico concetto subito riconoscibile, la casa. Gli architetti, infatti, hanno astratto questo concetto riducendolo alla sua forma archetipica. Un quadrato sormontato da un triangolo, per capirci. Hanno preso questa forma, questo volume semplice, e l'hanno sovrapposto e accatastato, come farebbe un bambino con le costruzioni, fino a creare uno spazio complesso e inedito sia all'esterno che all'interno. Uno spazio complesso ma altamente funzionale all'esposizione e alla vendita della collezione. Gli spazi generati dalle intersezioni di questi volumi sono allestiti a ricreare una galleria di ambienti domestici, mossi e dalle vedute sorprendenti, da cui i visitatori e i potenziali compratori possono trarre ispirazioni e spunti per l'arredamento della propria abitazione. Grazie Alessia. Patrizia, com'è che la nostra generazione satura di tecnologie ha tutta questa voglia di casa, di manualità, di semplicità? Ma dunque, la casa è la matrice di alcuni nuovi valori: frugalità, sostenibilità e anche consumo intelligente, risparmio, ma anche tempo dedicato alla casa, dunque anche alle persone, alla famiglia. In altre parole, una sorta di nuova domesticità che possiamo associare a un riavvicinamento a quella identità sociale che sì è definita oggi da ciò che consumiamo, ma comincia a essere definita o definibile anche da ciò che sappiamo fare, produrre, creare, e la casa, vera o metaforica, è il posto più naturale e ispirativo per questa riconciliazione. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, puntata riascoltabile e scaricabile come sempre dal nostro sito radio24.it, in attesa di risentirci domenica prossima dopo il GR delle 16. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.